Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli, ripartiamo dal tema Ucraina. Dunque, il presidente Poroshenko, come avete sentito, ha presentato al Parlamento una proposta di legge che garantirebbe alle regioni separatiste uno statuto di limitata autonomia che offre l'amnistia, che autorizza l'introduzione della lingua russa accanto a quella ucraina come lingua istituzionale e che consente alle autorità regionali di intrattenere buone e strette relazioni con la controparte russa. Insomma, un primo importante segnale, una possibilità appunto di trattativa che in qualche modo sembra profilare una sorta di modello altoatesino per le regioni dell'est dell'Ucraina. Oggi però un'altra notizia importante sullo stesso scenario è quella che arriva da Bruxelles. Dunque il partenariato tra Bruxelles e Kiev si fa sempre più stretto. Sentiamo il servizio di Beda Romano. Il Parlamento europeo firmerà quest'oggi qui a Strasburgo l'accordo di associazione dell'Unione europea con l'Ucraina. Il trattato, controverso perché ritenuto dalla Russia il tentativo europeo di occupare una regione tradizionalmente sotto l'influenza di Mosca, è giunto dopo lunghe trattative diplomatiche. Nel tentativo di calmare le tensioni con la Russia, Bruxelles ha deciso di rinviare alla fine dell'anno prossimo la parte dell'accordo relativa al libero scambio commerciale. Su questo punto Bruxelles è alla ricerca di una difficile intesa con Mosca. Il benestare del Parlamento europeo giunge mentre sul terreno il cessate il fuoco regge a fatica. Sul fronte politico, le ultime sanzioni economiche europee contro la Russia, accusata di ingerenze nella grave crisi ucraina, hanno provocato nuove tensioni tra Unione europea e Federazione russa. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Strasburgo. E noi cambiamo tema, il mondo si mobilita per l'emergenza di Ebola. Ieri a Bruxelles si è svolta la riunione di emergenza, la prossima settimana invece a Milano si terrà il vertice informale dei ministri della salute. Questa sera Barack Obama presenterà invece il piano americano. L'Europa da parte sua ha messo a disposizione dell'OMS 150 milioni di euro, mentre gli Stati membri si stanno muovendo anche singolarmente. Paola Testori Coggi è il direttore generale Salute e Consumatori della Commissione Europea. Il virus dell'Ebola è un problema gravissimo per la zona dei paesi africani dove si è sviluppato. E lì il problema è gravissimo. Uso veramente le parole gravissimo perché anche ieri il coordinatore delle Nazioni Unite ci ha fatto un quadro molto drammatico. Il rischio per l'Europa adesso non c'è. Quello che i ministri della salute stanno facendo è provare tra i ministri qual è il coordinamento europeo per il trattare degli eventuali pazienti che arrivino in Europa. Molti ministri nazionali hanno detto quello che loro stanno facendo, per esempio gli inglesi stanno costruendo un ospedale in Sierra Leone, i francesi in Guinea, l'Italia ha fatto degli investimenti, ha mandato anche l'Italia, manda dei materiali, degli equipaggiamenti, dell'assistenza medica, quindi tutti i paesi si stanno organizzando per dare aiuti materiali e in termini di persone. E in più stiamo noi, Europa, finanziando l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché l'importante è aiutare questi paesi a ricreare un sistema sanitario locale che possa gestire la malattia. L'intervista è di Valeria De Rosa. Parliamo ora di Scozia. Tra due giorni gli scozzesi saranno dunque chiamati a decidere se restare o meno all'interno del Regno Unito. I sondaggi danno una sostanziale testa a testa. Ai microfoni di Radio 24, intervistata da Adriano Palazzolo, sentiamo Linda Fabiani, esponente del Partito Nazionale Scozzese, in prima linea per il referendum sulla successione. Sentiamo. In caso di vittoria, quale sarà il vostro rapporto con l'Unione Europea? Richiederete immediatamente l'adesione? E in questo caso, non avete paura della decisione degli altri membri che deve essere presa all'unanimità? Pensate che i paesi che al loro interno hanno regioni con istanze separatiste voteranno sì per voi? Well, as far as we are concerned, per quanto ci riguarda, noi siamo membri complementari dell'Unione Europea come parte del Regno Unito. Abbiamo 5 milioni di persone in Scozia che sono cittadini dell'Unione ed abbiamo passaporti europei. Quindi ciò che faremo nei prossimi mesi sarà negoziare per mantenere la nostra posizione, così come lo farà anche il Regno Unito. Sono fiduciosa che resteremo nell'Unione perché anche i paesi che hanno potere di veto hanno tutto l'interesse nel mantenere la Scozia come membro. Noi abbiamo potenzialmente il 25% delle risorse rinnovabili dell'Europa e quando guardi al numero di europei che vive in Scozia e di scozzesi chi vive in altri paesi europei, ha senso per la Scozia mantenere il suo status di membro e sono sicura che è quello di cui tutti gli altri si renderanno conto. Ed è tutto per questa edizione. Europa 24 torna naturalmente domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.